Drommi. Chi ti c'è da Rubucu? Buonasera. Buonasera. E allora, signor Tore, come si fa? Sì, e come si fa? A piedi. Vabbè, l'importante è che si cammini anche a piedi. Guai se non camminiamo a piedi. Non dici uno, meglio il cammino in bar, non la dico la frase. Uia. E allora? Allora, sacco morto. Tra ieri e oggi, cazzo, meno male abbiamo finito, se no, cazzo, uia. Con un gatto, con un sicuro accanto, ragazza. Boh, non si può travagliare un gatto. Purtroppo, ha detto che veniva tutta un'ora un gatto. Cazzo, due giorni, ragazza, era di gribare. Cazzo, di gribare. E ieri sera, cazzo, mi sentivo anche non tanto bene. Cazzo, appena il soccorrente mi sono coccato, mi sono pensato domani a mangiare, che ci mangiamo. Cazzo, a risette. Ma si bravo una bucchiera di mezz'ori, tutta dolore, boh, non reagiamo anche in piedi. Non cos'è, un moto zappa io. Stavo ritirato della legna mica, c'era che avevamo tagliato noi in campagna. Così che ratti secchi eccetera, tutta la dimmi. Ah, oh, c'è sole, cazzo, e oggi la mattina si goza. Cazzo, però oggi era, si stava più bene, capito? Perché magari abbiamo preso di meno il sole, dai. Quello è come ti ha provato il sole, a Cabassori, e coso ti ha buttato giù. E poi lo era un filo d'aria, cazzo. Era di morire, basta, Cazzo, non ti accappuggiri l'animale. Cazzo. Infatti che ma cucano la giuda ha preso questo, mi si cucano all'ultimo mi ha citato a mangiare, cenare, cazzo, e poi mi sono cucato subito, ma con la giuda ho visto nulla, dico che sei stracco mosso. Perché quella voleva ritirata prima che facesse brutto. Sì, ma non era possibile, si è dovuto fare adesso, cosa ci vuoi fare, però ormai è fatto. Per quest'anno, all'anno prossimo si continua a fare quello che stavamo facendo adesso. L'importante è che si possa fare, dai, che siamo bene, dai. Sì, meglio così, infatti è meglio così che si faccia adesso. A trovato non si pensa più. Ma entrati siete ieri sera? No, io non c'ero, sono rientrato alle 10:30 a casa. Ero a Istri al campo sportivo a mio nipote, ho accompagnato a mio nipote là con mia figlia. E poi verso le 8:30 è venuto mio genero. Allora ero lì al campo, mi sono durato dalle 10:30. Ce ne pare. vinto hanno perso. Sì, perso hanno. Hanno perso tutte e due partite. Vabbè, certo. A palla tonda, certe volte si vince, certe volte si perde. E bisogna anche prenderla quando si perde anche. Con la sport è così. Infatti. Ci ritornano sabato adesso a giocare. Bene meva. Allora il paese mio si è andato, cazzo. Antipatico come che si paese, cazzo. Fissa ma cosa cura da io, cazzo. È antipatico, anzi devi essere un paese vedo. Ah, ma è antipatico, capito, ma è antipatico. Oh, io c'è manco da piccolo. Ho fatto solo la prima lì a basso, ma poi sei venuta a Sassari. Infatti, vabbè, tutto Giambardo, è tutto un ville, si può dire. C'ho un sacco di parenti, c'ho anche un fratello ancora. Lì che abita lì, ci sono i nipoti anche, capito? Però non mi va nemmeno andarci, non mi va. Chissà pure sta diventando un bel paese, sta diventando anche un bel manno ed è tutto vile, ma comparazione, tutto vile. È grandetto, ci abbiamo anche terreni noi ai Ciri, che ancora sono tutti e senza divisi, oia. che c'è un casotto alla fine più, mi dice che se ne frega. Oh, signor Frutini, vada. Oh, e non ce l'ho la campagna io. Oh, io. Ah, ce l'ho la campagna, ma si arrangiano, per cui sto bene io, tranquillo, non mi manca niente, mi manca solo la pena di salute e basta. Sì, quella piano piano, se va, la c'è manda. E allora, quella cosa più importante è la salute, a voi il resto se ne viene piano piano. Capito, così è. Così che manca macchia, entita, riba. Nulla, non ho sentito nessuno perché non me ne ho neanche portato ed ero lì che stavo guardando le partite e poi mi sono buttato a mangiare in chili a pagamento e oggi mangiato in chili. Ah, certo, andate a mangiare in Alberto. In trattoria o ristorante? Oh, c'era un campo lì e c'era birra, hamburger, patatine e cose, poi hai bustina. Vabbè, importante che abbia mangiato quello che ti piaceva. Sì, un hamburger, un pochettino di patatine e via, qualche tazza di birra. Va bene, il paese è bello, però a chi piace a me non mi piace tutto. Infatti sono come Gesù, scanduato, l'altro giorno, o sempre fratello, o sposare i parenti, boh, e non ando via a lungo, no. A chi gli si ti tratteni, ti si boccia la chiesa e non ti molla niente, se non bi, da voi ti soffre per il burro. E infatti le cucine, se non bi soffrendo, infatti io non so che c'è dalla raga, più alla raga che meglio. È l'unica così, specialmente uno che non è abituato a come fanno loro, capito? Befano, mangiano e cazzo, se ne frega, no. Bisogna tenersi un po' alle regole e basta. Quando si bobbì una tazza di cose, si dice, ma quando si bobbì? Infatti io un bicchiere me l'ho bevuto, però me l'ha giovito mangiando e boh, non ho bevuto altro. E hai fatto bene. Hai fatto bene e noi eravamo campagna mia con Luca, ieri e oggi. Però abbiamo finito, per cui siamo tranquillo per quest'anno, capito? Tutto bene, sì, con Luca. Cosa hai detto? Tutto bene con Luca, sì. Sì, tutto bene, tranquillo. Già la giovanni uscita da poco, li fa la valutazione da Cantari. Non vi dia manco, camieri, potete la cosa. Ti farà funzionare a casa, qua basta asciugarsi, cazzo. Ehi, travagliato, va. Sì, vabbè. Andate così, mi sei già aiutato. Sei così armato, così abbronzato, sì. Ah, sei, io mi sono passato al Marquaria, prima. A chi io sono qui in un canale, no? E faccio tutto in Plattamona, la campagna mia, che sono con un garabro più di fronte a Plattamona. Vengo un po' su d'ora, a fianco a Ciuscio, e la vallata sono qui, dietro il pollaio. Non vi basta l'aria, nulla, così che puoi immaginare un guaccio qui fila. Sembra non posso immaginarsi, ma che è. Marcello, così via, cosa vuoi fare? Però quando una cosa bisogna farla, c'è poco da fare, però quando si può fare, bisogna accettare, quando è possibile di farle, si fa, purtroppo è così. Purtroppo è così. Poi cosa da fare là in due, non là solo, capito? Andare, almeno fatto, non ci pensi più. Ah, Luca, non ci sta più entrando dalla 26. No, ne ha parecchio, no, non ne ha. Ultimamente gliel'avevano prestato per fare qualche lavoro, che c'era qualcosa che non andava, l'ha messo a posto, dopo gli ha tornato. Non ne ha, no. Ma lo sai che lui se non c'è apparecchi grandi no, non si parla, la baracchina ce l'ha, ma non gli piace il baracchino. Ma io ho detto che il grusso ce l'ha venduto. Però so, quando uno ha necessità è costretto, e dobbiamo fare, purtroppo è così. Purtroppo sì, se viene andare va benissimo. Ehi, se lo prenderà piano piano. Si busca un po' di soldi e se lo ricompra e già torna a entrare, capito? Il baracchino ce l'ha, 40 canali ce li ha, però ripeto, non attacca, non li piace, è abituato, è troppo vizioso, capito? È troppo vizioso. Se lo gioco e piace la roba grossa, li piace. E allora, a Villaggio Ricco, a te ti piace la crosta, a te ti pare che mi stai là in costa la buonanima. Dove anda? E allora, e se poi ci arrivi, ti piace la crosta, la crosta ti piace. Ma con BMR a tenere nulla, è diventato boh, prima diceva cosa a noi che non entrava, e c'è via pregando se entrava, c'è là, ah ma cazzo non entra tu, boh, è diventato un po' come Androni, era baracchinista, vabbè, e ormai era abituato a Romano e ripiace Romano, un minore non ripiace più. Sì, anda, vabbè. Purtroppo se piace la chiudo, ma se la fosse venduto. Ma sai cos'è ciò? Ma babbo. Ma non entra nessuno oggi, boh. Come ti disgraziano, tutti morti siete. Ma se vai da se non entrano. Non siamo qua a vedere, se non avete ora la buia, ci arremmo. E non sanno cosa si stanno perdendo questa. Tutti i cioccolatini ce li siamo mangiati noi. Giulia. Oh no, tu. Allora, se ci baetti, non sanno cosa si vedono. E allora, ma ci baetti. Ma vi siamo noi. Anche se vi siamo un poco, però... Ah, ma consentito buona sera. Io ce l'ho dalle 5 e mezza acceso. Già si è acceso e mi sono andato in un bugiuro a pigliarmi un fresco. No, io ero acceso dalle 4 e 20. E... Per controllare la batteria della bicicletta, se si poteva abbassare leggermente. Ah, ma quei 2 centimetri. No, non si può abbassare. No. Non si può abbassare. Perché in base a me come giù la batteria c'è cioè un pezzo di lamiera che mantiene la batteria su quel pezzo, poi è abbullonata la carcassa, abbullonata al telaio e per cui non ho, se ne tolgo la maniglia della batteria perché la batteria se ne può togliere, no? Tu sposti i giri perché è ribaltabile il sedile, e ribalti il sedile, c'è una maniglia, la tiri e ne esce la batteria, capito? E stavo controllando se si poteva abbassare e non si può abbassare, solo una cosa c'è, se io ne tolgo la maniglia allora va bene, allora 2 centimetri si abbassa, però dopo come la tiro sulla batteria, se ne può sempre tirare, capito, se ne può sempre tirare almeno una parte. E poi stavo guardando le batterie qua a computer e sulle 85 costa, dai, sulle 85 la batteria, che è leggermente, mi sembra di 3 o 4 centimetri più corta, lo stesso voltaggio potrebbe anche andare, dai. E più stavo guardando quella bici che è bella, quel freno a dischi, la batteria a litio, bella è. 640 euro, bella veramente. E com'è, da passeggio? Normale, capito? Bella veramente. Se vuoi parafango, c'è il parafango, se vuoi senza parafango, c'è senza parafango. Bella, c'è il freno a dischi, a disco, tutte e due, e la batteria al litio, dai. Bella veramente, ciò. Sì, sì, già lo so, già le ho viste, sì. No, quella che mi voglio prendere io costa un pochino, però come quella che ha detto Franco, mi pare. Franco gli chiamava, dice di andare alla rimane. Ah, già Franco. Ce la sono bella, dai. Questa è bella al stesso, quella che stavo guardando io è bella. Questa è una bella bicicletta, cazzo. Sì. Con una carica fa, mi sembra, 34 chilometri, 34 o 44 mi sembra, ma non mi ricordo bene adesso, con una carica, capito? Sulle 23 chilometri all'ora. Sì, infatti, ed è così, sono così, durano sino a 20-30 chilometri, non di più. Poi le devi mettere a caricare. Eia. Precisa la mia, c'è a Berlino, in Germania. 699 euro. E più 40 euro di trasporto. Precisa la mia. Sì, già sono così, sì. E anche quella che mi aveva detto Gianfranco è così, il trasporto. Oh, quanto costa? Sui 1500 euro. 600? 1500 euro. 1500 euro, perché sono da cosa sono? Si può dire da mountain bike sono, da professionisti. Ah, cazzo, da farlo, quello costa troppo allora, no? Vabbè, a chi piace. Io non la prenderei, ma perlomeno. Però se a uno gli piace, quando a me mi piace una cosa, costi quanto costi, io me la prenderei. E così sai tu. Sarà bella senz'altro, però è un po' troppo il prezzo, capisci? Sì, al prossimo anno, a inizio d'anno del prossimo, guarda a vedere se è vero quello che stanno dicendo. Io se trovo la batteria più... Anzi, prima vedo un po' se ne posso togliere la maniglia. Se ne posso togliere la maniglia, se lì la bassa di 2 cm 3 abbassa, per cui sono tranquillo, capito? Ma se no sono costretto a prendermi un'altra batteria, c'è la batteria come la mia, però è leggermente più corta, però voglio vedere se ci sta bene, se va bene all'attacco alla bicicletta mia, capito? Devo contattare la ditta dove l'ho comprata, capito? Infatti bisogna guardare, però non è tanto la batteria, è il cofanetto della batteria che è più grande. No, ma c'è anche se è più corta, va bene, anche se è più corta, anche di 10 cm, va bene ugualmente, perché tanto l'attacco rimane sempre sotto, capito? L'attacco della corrente rimane sempre sotto, sul basamento, capito? Non è né in mezzo né nella parte superiore, è sotto, come tu la infili che arriva al fondo, c'è il contatto e lì c'è l'attacco, capito? Insomma, è il cofanetto della batteria, quello è il cofanetto, la batteria è piccola, è il cofanetto che è grande. Allora, sono fatti apposta queste cose, della larghezza e della lunghezza, capito? Perché attaccate il telaio sia a fianco alla parte, all'altra parte c'è una specie di canaletta tutta in plastica ben messa in modo che la batteria non giochi, capito? Sì, già lo so, sì, com'è fatta, l'ho già vista, cioè com'è fatta. Solo che di 2-3 centimetri più piccolo il cofanetto, non so se c'è. Boh, se no sono costretto a staccare la maniglia, tanto la mattina la posso sempre togliere come voglio, anche con le mani, pesa, la mattina pesa un mese, mi sembra così, ma è pesa perché ha piombo e pesa la mattina, però io se ne può togliere la mano, capito? Sì, bisogna vedere se è fatto con la maniera, la maniglia che apre per togliere la batteria, ecco cosa è, perché quelle hanno un attacco che tiri la maniglia e si apre per sfilarla. La maniglia c'è per tirarla su e più per coprire l'attacco dove carichi, attacchi e ricarica la batteria sotto il sedile. Se tu sollevi il sedile, poi quando il sedile è ribaltato, tiri su la maniglia che copre l'attacco l'attacco del carica batteria e così. Se io tolgo la maniglia si abbassa, allora il sedile si abbassa e posso camminare, mi fermo tranquillo, sto coi piedi a terra, bene, capito? Sì, io te l'avevo capito, sì. Solo che se togli la maniglia non so cosa ti fa, perché quello lì fa anche d'aggancio, fa. No, non fa d'aggancio, no. Non fa d'aggancio perché i sedili si ribaltano, però c'è l'attacco direttamente sul tubo del sedile, c'è una specie di piastra con un buchettino, c'è una levetta, la tiri su e ribalta, oppure la metti giusta e si incastra e non si muove, capisci? Vabbè. E così, provo a toglierla a vedere. E io te la faccio vedere, uno di questi giorni, se ci vediamo e te la faccio vedere com'è, come non è, almeno mi dai anche un consiglio, dai. E infatti, ci vediamo in questi giorni, me la fai vedere, così ti do un consiglio, vedi? E io, domani mattina no, ma forse dopo domani, forse dopo domani mattina, se sei libero. Se ti fa una scappata, così la guardiamo insieme. Tanto mio, stamattina sono uscito solo con mio nipote, andavo a regadare il centro, con Garido a passeggiare, e siamo durati a mezz'ora e mezzo. Tanto io non è che sia tutti i giorni in bici, capito? Quando è possibile, ci vediamo, non è una cosa, capito? Non è sempre che io esco, capito? Neanche io la mattina sto uscendo più come. Solo stamattina sono uscito. Se esco solo per farmi qualche commissione, boh. Perché magari, per esempio, domani mattina devo andare mia moglie a fare un'analisi e sale e entra. Poi alle 9 e mezza devo andare a prenderla e dopo dobbiamo andare al negozio a fare delle spese, per dirti come siamo. Ma certe mattine non esco a nessun posto e sto tranquillo, capito? Sì, anche io. Forse nel mese di luglio, forse accompagno mio nipote qua vicino a cosa dell'oratorio e poi ce ne andiamo io e mia moglie, ce ne andiamo al mare un paio d'ore e poi a luna rientro. Vabbè, fino alla mattina, alla sera, qualche sera, non vi sono problemi, no. Tanto io non è che sono tutte le mattine che prendo la bicicletta, capito? Certe volte magari scendo giù, però faccio altre cose così, ma pensi, però non addocco la macchina la bicicletta, capito? Per dirti no, ma se ti capita di avere tempo, se sali, faccio vedere così mi dai un consiglio se si può fare, se non si può fare, come fare, eccetera, capito? E venerdì ci sentiamo. Sentiamo venerdì e vengo venerdì direttamente, tanto venerdì non devo fare nulla, devo rimanere a casa e boh. Allora, se sei libero mi fallo scudo, se sono a casa puoi salire benissimo venerdì, capito? Sì, ci sentiamo venerdì, ci sentiamo per quello. Va bene, ok. Bene, Meda. Vediamo un po' se c'è lo Bacchisio. Bacchisio, oh, quello non ne ha più voglia nemmeno lui, eh. Oh, non sarà rientrato ancora. Sarà un momento di rientrare piano piano. Ah, Piccina. Tutti da Targo stanno andando. Tutti da Targo, per carità. E quando è avanti ieri, quando è entrato stava aggiustando il filo, stava aggiustando. Ancora? Se ce l'aveva in mano una settimana fa? No, oh, c'era attaccato un piede, ce l'era attaccato e quindi l'ha messo a posto, penso che l'abbia messo a posto. Dove che si beava? Allora sentiamo più bene, si è messo a posto tutto. Ah, chissà, forse più tardi. E sono gli 8 meno... Cazzo, io... Mi togli 8 meno 4. E io sono meno 20, ciò. Da andato l'hai preso, Samus. Ah? Un attimo, ne sono altro. Ma sono qua. Attenzione, Bacchisio. Eccoci qua. Già sono qua. Lasciamo qua, e tanto mi gioca vedendo delle giornale giallo. Oh. Guarda allora, guarda, guarda. Allora me la accendo anch'io. Sì, tanto sto parlando a Baibelli. E beh, infatti alle 7:30 per iniziare, allora è già quasi finito. Oh, finisce alle 8, finisce. E più la dato, adesso non accendo, oggi non l'ho acceso per niente il televisore. Onda Viagana era compita sempre. Anzi, si mi è presentato una cosa, non mi faceva entrare prima, che una cosa che hanno messo adesso è obbligatorio, si mi presentava un quadretto della scrittura che per forza dovevamo aggiornare e allora, siccome io non sono riuscito a toglierlo, è venuta mia nuora e me l'ha messo a posto. 2 minuti e ha fatto tutto. Televisore? No, il computer. Ah, perché dovevi registrarlo qualcosa e poi fargli l'affare, nel mettere ok. Perché è obbligatorio a farlo, capito? Hanno cambiato non so che cosa. E l'ha fatto anche a me, dovevo registrare e mettere ok. Cobre Word, boh, una cosa del genere. Infatti, va bene, infatti. Ha fatto 2 movimenti e l'ha messo a posto. Sì, no, è così. Bisogna registrarlo e mettere ok. Me lo fa lì, tanto. Già è vicino, lo stesso piano rosso, per cui era libera, me l'ha fatto subito. Stavo sempre guardando, ho fatto delle biciclette, delle batterie. Quella batteria infatti che interessa a me, che è più leggermente più piccola, però non so se va bene, se non va bene la mia. Devo contattare dove l'ho presa, vedere un po', perché se c'è me la urgino, se va bene, capito, più bassa. Però adesso vediamo un po', dai. Prima controlliamo se posso fare quel lavoro che ti stavo dicendo, dottore. Sì, piano piano. Accerchi poi quella che trovi, prendi, quella giusta. Vediamo un po', va. Ok. Attento, signor Bacchisio. Ma chi è? Gli stranieri sono. Che abita la propagazione. Ah, ma di dire noi abitiamo solo usaggio. Infatti, se no li va bene nella gareggio. Vedete che gli altri comprendono. Anche un free. Noi parliamo con Peplè, facciamo i sardui. andiamo. E allora so. In inglese, vega la maschigheggia. Che hai studiato in inglese. Certo. Prima quando andavo ancora io si studiava il latino, si studiava e il greco, sì, allora è il greco to. Solo quelli due, sì, Giulia. Abbiamo battato, davvero, già sono passati 2 anni, gatta, per carità, gatta, Giulia. L'ho fatta solo la prima, gli altri li ho fatti qua, fino alla quinta l'ho fatto qua, perché ho fatto la quinta No, di più. Ah, che troppo. Sì, sto facendo vedere Portoferro, le macchine in mezzo alla spiaggia. Le macchine che sono andate in mezzo alla spiaggia, 200 euro di multa e se si buttano la macchina con un garratrizzi. Già l'ho visto, vaia. Fai tre. Cazzo, l'ho vista, cazzo, stamattina in macchinetta, cazzo, infatti sono venuti in vigile, ho visto che la stavano tirando su fuori strada, ma erano due macchine, capito? La sono state sequestrate le macchine. E una è a Bosa, mi ha sottile in divura, l'altra è a, le altre due sono a Portoferro, tutte e due con un garratrezzi si erano buttate, poi se bagano un garratrezzi, se bagano il buco a multa di 200 euro. Sì, la macchina para. Cazzo, ciò finisce sempre. Che prima si voleva fare tutti i sciopuri attaccati alla spiaggia, proprio mare. Ma purtroppo si può fare niente, capito? Ma con l'asciugamano poi pure più in terra, anche se oggi si può tirare la sabbia. E quello è a Sentino, ma non è fatto bene, perché stavano portando via la sabbia, stavano portando via. Ma no, non faccio con chi c'ha sabbia nel negozio, potendo esistire, hanno fatto 1.500 euro di multa, hanno fatto. E anche le la buccia delle cioccole, beh, hai visto che l'hanno fatta vedere? Dentro la buccia ci hanno messo queste, le bucce delle cioccole, le chioccioli. Sì, hanno fatto bene, quelle sono 150 euro di multa. Non lo so, fa pigliare un po' che di chissà cosa, ma non si può portare via nulla da fare, quello che trovi lo devi lasciare qua. E che si stanno in appadricci che devi sigaretti, 200 euro di multa. Che hanno fatto i sigarette, che cosa? Cicche delle sigarette che hanno messo nascosto in mezzo alla sabbia. Cazzo, l'hanno fatto anche tu, l'hanno fatto 200 euro di multa che tu giovano. Addirittura, ma la cicca della sigaretta? Allora, invece di metterla negli affari appositi, devi avere un portacenere, no? Devi avere e poi buttarla nella saltatura. No, la quadra in mezzo alla sabbia. Sono già avvisati i vigili, il bagnino, 300 euro di multa. Te ne pare. Cazzo. No, poi andare a mare, devi pagare, non lo so che io, guarda. Mi sono scambiati un po' di legge, cazzo. Insomma, da ogni roba vuoi fare di là. Ora se ne gira, tu per poter entrare in mare devi pagare, salire un prezzo enorme per farti il bagno, se no non venti. Purtroppo le leggi sono così, cazzo, li pensa prima a farti la legge. Infatti, ma non è giusto che tu che fumi, se buoni dici che devi sigarette in mezzo alla spiaggia, 30 acqua in mezzo alla spiaggia, ma io non l'avessi mai visto. Poi c'è sempre i butti che ti piaggi. Gli hanno buttato 200 mila franchi, a 200 euro hanno fatto quello. Se mettono a posto i contenitori proprio a posto, allora va bene, chiaro, no? È giusto che sia così. Ecco, perché tu la sigaretta, perché devi buttare? Oppure perché, anche accesa, mi la buttano anche accesa, uno passa coi piedi e si brucia anche i piedi. Non la puoi buttare la sigaretta, anche se è spenta, non la puoi buttare, ci sono i contenitori, oppure prendi un bicchiere e te la metti nel bicchiere, trovi i contenitori e ci butti tutto. È giusto che sia così? Ma vedi, tu dalla cosa arrivi alla rotonda, ci sono i contenitori, te lo prendi, te lo porti appresso e poi quando è finito lo riprendi e lo metti a posto. Ecco cos'è, vieni giù da 200, vieni giù. Ciao Mari! E sta brava Luca! No, io sono sveglio! Eia! A me pare che hai visto che è dormito, Gio Mari! Hai dormito, la base è scidato, La base è scidato, la vado a mangiare, pasta al forno, vero lui? Gianni, dottore, Gianni! Buonasera a tutti, dai! Stavo ascoltando il discorso del mare. Quello è poco, ha sentito non puoi portare manco l'asciugamano. Quello sì. La soia ti porti, ti ha un pareggio, ti porti quella e ci metti l'asciugamano sopra. Era della notte sicosa, boh. A me mi pare che sia mezzanotte quello. A studio non si porta via la sabbia dopo l'asciugamano, poi l'asciugamano lo scotti prima di andare via, non è che lo lasci pieno di sabbia, non conviene manco a lui. E purtroppo hanno fatto quella legge lì e quella legge lì deve rispettare, se no sono sanzioni. E andiamo a vedere. Ciao carini, avanti. Io sono appena rientrato, ero lì al fatto, aspetta. Che il figlio, ragazzi. Sto parlando, attimo, sono un caso di stimolino. Cotto, sì. No, scherzato. Ma stavo più facendo spettacolo come facevo gli altri anni. Anche un altro. Ecco, ha cambiato la musica. Vabbè, questo qui musica non è fa arrivare. Non è come l'altro non fa arrivare. Vabbè. Avanti Giovanni, buonasera. Ciao già, buonasera. Ben entrato. Ma tu se ne immagina, cazzo, che sei andata prima a Romanzano, cazzo, ho fatto la legge. Ah, ma dimmi tu, dici che si sono fatte tutta la sabbia dal centino. Non c'è più sabbia. Anche se muore l'asciugamano, in terra vanno attaccate la sabbia addosso. E la voce si boccia la sabbia attaccata all'asciugamano. Boh, e oggi qui che nessun luogo una cosa del genere. Ma quando mai? Cazzo, non mi boccio pure l'asciugamano in terra. E da pure il consulente, io non mi si boccia la sabbia, no. Cosa ne vuoi? Se il consulente l'asciugamano prima portarmi a casa, no. Con i cancella che è meglio. E anche ce l'abbiamo fusilato. Cappotto mi sta legge così. E il sindaco di Soso quello, Tu cagliaremo il fuoco. Tu lo fanno senza asciugamano, malissimo. Io non le porto asciugamano, mi metto mutandina che ci sei, no? Otto. Certo, non risolvo. Certa mia, la bella tanto si fa sentire. Ah, cosa eri? In turneri, Alessio. Buonasera Gianni. In turneri. No, stavo sistemando questo geccio. Ho dovuto cambiare il trimmer, adesso è a posto, è perfetto. Si sente la differenza della modulazione adesso. Prima era bassa, adesso già è perfetto, adesso è turnetto. Ecco qui, adesso ce l'ho inserito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso è staccato, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Può andare, va, può andare. Vero Gianni, può andare, no. Ehi, un attimo che c'è un telefono. Sì, ok. Signor Marchisio, ci sei, batti un colpo. Ah, chi c'è già Mangelli? Va, minando io, buco tutto, dai, ci sentiamo domani. Così all'occhio, per cui ne approfitto, dai. Ciao Tore, ciao Bacchisio, se c'è nascosto, Tonello e Gianni, dai, ci riprendo io, chiudo, dai, a domani se coincide, ciao. Ciao Giomari, ci sentiamo, Gianni si è spostato secondo la fila a porta, avanti Tore. Sì, ciao Giomari, stammi bene, a domani, se tutto andare. Ok, e allora Antonello? Allora, mi sono messo a lavorare a farmi la roba mia, perché, cioè, è un casino, cioè, quando l'ho preso, cioè, come il calzolaio, ho capito, l'ho dovuto fare, non avevo voglia di fare nulla, ho preso i pezzi e l'ho piazzato di nuovo e apposta. A me non ci commissionerò, ogni tanto ero stufo di passare gli CRC, ho fatto prima compagni di quei componenti e è perfetto adesso, non ha nessun problema, i watt sono più di 15, così a Malenza e così è a metà, 5 watt. Sì, andate così, andate. Già va bene così, oia, mandate là. Va bene. Va bene, sì. Altro non me lo immaginavo che era il film, perché andava in regolare, l'avevo lasciato spento. Fino alla settimana, se l'altro di così usavo l'altro, l'87. Ogni tanto faceva le bizze giù, adesso basta. Ho preso e sono andato da Fusaro ieri, mi ho preso anche il catalogo addirittura. E c'ha gli apparecchi della Midland in vendita. Oh, presotela. Ah, non l'ho preso, ho preso il catalogo ieri sera. C'è un apparecchio bellino della un PMR con l'antenna esterna. C'è un metro di cavo e l'antenna magnetica. E l'attacco c'è di sigarice, bello? Sì, una bella luce, non deve entrare mai nessuno, guarda, il PMR. Aggiungi me, è acceso però non entra mai nessuno. E vabbè, su questi giorni lo facevo spento anch'io, anche perché ho preso questo apparecchio qui e l'ho messo sopra il tavolo e quindi il resto della roba l'ho dovuto appoggiare da un'altra parte, capito? Adesso vai a tirare la sistemo tutto bene e così devo accendere di nuovo, anche perché l'altro giorno mi ha fatto uno scherzo con lei, lo Iesu. Stavo modulando tranquillamente in 27, dopo che si è accesa la lampadina dell'alimentatore, come se non ce la facessi più, in pratica l'ho dovuto spegnere e l'ho fatto raffreddare, c'è il trasformatore a Budendi. Perché? Come mai? Cosa era? Troppo carico? Troppo caldo era. Evidentemente lo Iesu pompa più di 50, doveva essere più di 50 watt, capito? Ah, vabbè. Vuol dire che allora volevi lasciare a fermo bombe di bogu. Io c'ho portatili, non è quello il problema. C'ho il Bofeng, c'ho la tenesta, ma è il modulo lo stesso. C'ho anche l'attacco all'alimentatore, c'ho il pacco batterie quello falso, quindi posso usare tranquillamente l'alimentatore per il Bofeng. E quindi modulo tranquillo. Sì, vabbè. Lo usi. Sì, dove si usa? Si fa gente. No, là ci fermo. E chi siamo di attacco? Ma se me lo porto appresso da domani, così è messo, se qualcuno lo richiama, appena il prendo gli rispondo. Così a me lo riso di nuovo, perché è parecchio tempo che è fermo, capito? Voglio farli girare, almeno ci rivettiamo di nuovo anche lì. Sì, vabbè. Andare anda, aspetta vedere se c'è Battiglio, Marino è entrato, andare dai, vabbè dai, io chiudo, Ali, direttamente, devo andare a prendere la signora, andare, ci sentiamo Ali, saluta Maggiani se entra, ok, ciao. Ehi, d'accordo, ciao, sabato ci sentiamo al limite domani, comunque di buon tutto, se rientra Gianni già non c'è problema, adesso va qua. Ok, ciao Antonio. Ciao Salvatore.